известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. So help me God. Questa la... la formula conclusiva di, del giuramento di un presidente degli Stati Uniti d'America, che Dio mi aiuti, era il 20 gennaio 1961, c'era il sole, ma faceva freddo come fa freddo oggi a Washington, esattamente 48 anni fa, quando un presidente che è stato a lungo evocato negli ultimi mesi, allorché Barack Obama ha cominciato progressivamente ad avvicinarsi sempre più alla Casa Bianca, giurava come, come presidente. E l'America è cambiata, l'America è diversa, ma l'entusiasmo che si vede oggi, a cui stiamo assistendo oggi in attesa ormai a 110-111 minuti dalla investitura di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti, è lo stesso o forse addirittura maggiore. Si ha tutta la sensazione di essere testimoni di un passaggio della storia. Oggi proveremo a seguire in diretta con voi durante una puntata un po' particolare di Jefferson, quello che succede a Washington, i rumori, le voci, gli eventi, i personaggi, i primi discorsi. Poi passeremo la mano agli altri programmi di Radio 24 che a loro volta, credo, rivedranno il formato quotidiano per adattarsi, insomma, per rendere conto nel modo migliore possibile di questo, appunto, di questo spicchio di storia in questa mattinata di Washington. Tra le altre cose io vi ricordo un po' di contatti, perché oggi, ma sempre, nella, soprattutto in questa nuova versione 2009 di Jefferson, Jefferson 2 come l'abbiamo intitolata, la vostra partecipazione è gradita e necessaria. Potete farlo semplicemente con SMS al 349-238-6666, ma potete soprattutto utilizzare i nostri siti Facebook. Abbiamo un sito per parlare direttamente con noi che si chiama Redazione Jefferson 2, ma poi abbiamo un sito bacheca particolarmente studiato per ricevere i vostri pareri, le vostre opinioni sui, sugli argomenti al centro delle nostre trasmissioni. Si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Dite la vostra, esprimete quello che pensate, che è esattamente quello che avete già cominciato a fare da stamattina, allorché abbiamo messo in bacheca il primo argomento di dibattito. Niente più che un vostro auspicio nei confronti, di fronte alla nuova presidenza americana, di fronte a Barack Obama che diventa presidente numero 44, ne sono arrivati una pioggia, tantissimi, e come d'accordo, appunto, ne renderemo conto, ne faremo ampia lettura nel corso della puntata di oggi. E poi vediamo a che punto siamo in questo momento. Dunque, i coniugi Obama sono in questo momento, dunque sono stati questa mattina alle 8:30, sono stati nella chiesa episcopale di St. John, proprio di fronte alla Casa Bianca, dove hanno seguito la funzione secondo ormai una consolidata tradizione. Poi hanno coperto un brevissimo tratto di strada, in quanto la chiesa di St. John è la chiesa dei presidenti, la chiesa vicina, la più vicina alla Casa Bianca, e con la Chrysler nera già leggendaria, no? Quella che ha la targa 44 come il numero del presidente che sta per insediarsi, sono andati davanti alla porta di casa dei coniugi Bush, che sono usciti, aspettavano e avevano pronto anche il caffè che avevano messo sul fuoco. E Laura e George W. sono usciti sulla porta, hanno ricevuto anche un regalino da Michelle e hanno introdotto i loro ospiti. Tra l'altro il cerimoniale dice che c'erano anche i Biden, non li abbiamo visti, li hanno fatti entrare da un'altra porta, e si prendono un caffè insieme. E esauriti i convenevoli, tutti insieme andranno verso il Campidoglio, dove nel frattempo alle 10 è già cominciata la cerimonia del giuramento, una cerimonia estremamente complicata, ricca di appuntamenti, ricca di ospiti. Naturalmente abbiamo appena visto un'immagine, tra l'altro piuttosto impressionante, certamente commovente. Abbiamo appena visto Muhammad Ali fare ingresso in una delle tribune per Very Important Person al Campidoglio, tra l'altro assolutamente, come dire, affaticato, appesantito dalla malattia che da anni lo perseguita, ma certamente entusiasta e desideroso lui, che è stato così, in modo così, no, smagliante, un protagonista della rinascita, anzi della nascita afroamericana, di essere anche lui parte della festa razziale, perché esiste, è inutile negarlo. Oggi ne è testimonianza anche un grande complesso editoriale del New York Times. Esiste anche un importante motivo razziale in questa giornata. L'America arriva definitivamente a un gesto, a un'azione pratica, non a una dichiarazione di intenti, che significa riscatto da un terribile peccato del passato. Vediamo un po', proviamo a sentire cosa dice il nostro amico di Fox, via. Behind us here, as we look up to the Capitol, you see everybody gathered around me. They are Bill Hemmer sta sul Mall. Che cos'è il Mall? Il Mall è una specie di gigantesca vasca, diciamo così, lunga 2 chilometri e passa, che congiunge il Campidoglio da una parte, da un capo del Mall, dal monumento a Lincoln dall'altra parte, Memorial di Lincoln dall'altra parte del Mall. C'è anche il famoso muro, per esempio, per i caduti del Vietnam, insomma, dove ci sono tutta una serie di simboli americani, quindi due grandi simboli americani che si guardano, si scrutano, si rispettano e si proteggono a vicenda. Sulla scalinata del Lincoln Memorial è già stato Obama domenica, oggi tocca al Campidoglio, il luogo dove i presidenti vengono sanciti, dove avverrà il giuramento, preceduto da una serie di appuntamenti che, se volete seguire man mano l'evento, vi posso anche elencare. Comincerà a suonare la banda dei Marines, poi ci sarà un discorso inaugurale della senatrice Dianne Feinstein, poi toccherà alla tanto discussa invocazione del reverendo Rick Warren, no? Il reverendo della Southern Church della California, accusato di eccessi fondamentalisti, ma comunque voluto da Barack Obama proprio per capire, per dare senso, per dare forma alla sua intenzione di trasversalità, che ha in un certo senso motivato fin dall'inizio questa rincorsa verso la presidenza. Ma abbiamo pescato, è proprio il caso di dirlo, con un amo lungo 4-5 mila chilometri, Mario Platero, là in mezzo, beato lui, a godere della situazione, dei fatti, dell'evento e credo della temperatura emotiva. Mario, raccontaci, eccoci. Eccoci, dunque, sentivo che contavi di quel che succedeva alla Casa Bianca, l'arrivo dei presidenti. Beh, io sono qui in un'area che è stata popolare, non sono proprio sotto il podio dove Barack Obama parlerà. Abbiamo avuto un grande privilegio come giornale di essere inclusi in queste prime file, quindi il racconto che ti faccio in diretta: vedo di fianco il corpo diplomatico, davanti a me la banda Marine, uno stuolo straordinario di fotografi e giornalisti, e poi la distesa che tu raccontavi, la distesa fino al Lincoln Memorial, l'obelisco, una massa di gente, si calcola che ci saranno 2 milioni di persone, ma è stata, direi, un po' tutta l'esperienza dell'arrivo, una grande festa popolare, dal momento in cui si prende la metropolitana per arrivare, che è l'unico modo davvero pratico per arrivare qui vicino al Campidoglio. Le strade intorno sono tutte bloccate, certamente non si arriva in macchina, un continuo flusso di gente, un continuo abbraccio di persone, tutte motivate da questa straordinaria giornata storica, quindi una straordinaria emozione davvero che la si sente per strada. Una giornata fredda, ma una giornata di sole, una giornata, devo dire, molto bella dopo il grigio degli ultimi giorni. E dunque siamo qui in attesa, ci vorrà ancora un'oretta prima che il presidente arrivi e comincino le cerimonie ufficiali, ma intanto la gente è qua, la gente aspetta, siamo arrivati alla giornata che tutti sognavano e che solo alcuni mesi fa poteva anche sembrare impossibile. Grazie, grazie Mario, proveremo a rimetterci in contatto con te tra qualche minuto, insomma, per cogliere via via il crescere degli eventi, delle presenze. Si è appena intravisto Dustin Hoffman, pensate, uno degli infiniti, no? celebrities americane, personaggi celebri americane che partecipano, che hanno voluto in carne e ossa partecipare, testimoniare a questa giornata, 10 jumbo screen, 10 schermi giganti, mega giganti, come solo per una inaugurazione presidenziale rimandano le immagini a chi si trova sul mall, perché ormai arrivando per esempio adesso si può avere l'avventura di trovarsi diciamo a un paio di chilometrini dal luogo del giuramento, quindi solo gli schermi possono garantire, per come sono poi disposti sul mall, una visione, ma certamente comunque la partecipazione in questi casi si fa più con gli occhi che con il cuore. La partecipazione voi l'avete fatta anche con i vostri computer, partecipando al nostro Express Yourself, pronunciando in tantissimi il vostro auspicio per la presidenza che abbiamo visto costruire giorno per giorno anche qui da Jefferson, per cui vogliamo cominciare a leggere alcuni vostri pareri. Cominciamo da Hermes, il primo che ha scritto e che ha scritto: Obama ha radici in America, in Africa, nel Pacifico, nelle Hawaii. Gli auguro di non cedere alla tentazione di trascurare l'Europa e il suo ruolo nella storia della democrazia, di non farsi assorbire completamente dai problemi interni e dai rapporti con l'Oriente emergente e con le sue economie. In un mondo che per gran parte non conosce democrazia, il ruolo dell'Europa dovrebbe tornare centrale a pena di costi altissimi in dolore e libertà. Capito, Barack? Giuseppe se la gioca più in fretta e augura a Barack Obama, in eccellente inglese, tutto sommato, di cavarsela bene. Vincenzo scrive: Obama è atteso da un compito terrificante di fronte alla crisi, non ha un budget federale che consenta politiche di deficit spending e non ha nulla da privatizzare per far cassa. Manovre sui tassi di interesse non sono più possibili e i tagli alle tasse non sono la panacea. Mi sa che a lui e al suo Dream Team toccherà escogitare un cambio radicale di visione globale, un World New Deal, lo chiama Vincenzo, oppure avremo una delle presidenze più opache della storia. Giusy scrive che l'America torni a essere un grande paese al quale poterci ispirare e che Obama sia veramente il grande cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno. Carlo, secondo me Obama sarà un buon presidente per gli Stati Uniti, tuttavia temo molto un disimpegno americano nel resto del mondo. Dove non sono arrivati loro, non mi pare si viva un granché bene. The sunset at night. È il momento della pesca dei VIP. Noi abbiamo pescato il nostro VIP, insomma, il VIP di redazione. Mario Platero, ben schierato, posizionato magnificamente, vero Emiliano? Pare si trovi in quarta fila, quindi praticamente attaccato a Obama. Una posizione straordinaria. Ho detto, forse rischio di non fare il pezzo per il giornale, ma voglio vedere le foto che farà col suo telefonino. È appena arrivato Howard Dean, il presidente, il capo del Partito Democratico, un altro che ha giocato una parte importante in questa elezione, un'elezione che ha una lunga storia, di cui così di tanto in tanto vi facciamo sentire qualche pezzo, soprattutto qualche pezzo verbale, perché poi è di parole che si è fatta, si è costruita, è nata di grande potenza retorica, di una oratoria al limite del virtuosismo e di una capacità comunicativa che ha, attraverso un lavoro straordinario di Barack Obama, poco alla volta portato dalla sua quello che sembrava impossibile, ovvero un'intera nazione. It is that fundamental belief. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. That makes. Qui siamo a Boston, siamo alla convention del 2004, quella che avrebbe portato la candidatura perdente di John Kerry. Appare un politico nuovo in corsa per un seggio senatoriale dell'Illinois, un politico che in pochi conoscono, solo i bene informati, ma il suo keynote speech, il suo discorso chiave pronunciato alla convention, fa capire all'America che una nuova star politica è nata. The negative ad peddlers who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America, there is the United States of America. Ecco, c'è già in nuce, già c'è tutto il pensiero, almeno il cuore rovente del pensiero di Barack Obama, l'unità assunta come punto di partenza della ricostruzione. È proprio da quel trampolino di Boston nel 2004 che parte la straordinaria rincorsa di Barack, che pochi mesi dopo arriverà comunque a sancire un primo grande successo con la conquista del seggio senatoriale, solo il quinto afroamericano a arrivare a un risultato del genere. Emiliano, ci sono notizie in arrivo. C'è un'agenzia battuta pochi minuti fa che spezza un po' questo clima di speranza, di euforia, di gioia, perché pare che l'intelligence americana abbia ricevuto indicazioni in base alle quali un gruppo islamico somalo avrebbe intenzione di organizzare un'azione dimostrativa durante la cerimonia di investitura, di insediamento di Barack Obama. Il gruppo in questione si chiama Al-Shabaab e ci sarebbe una cellula di loro simpatizzanti attiva negli Stati Uniti, anche se poi bisogna dire che la stampa americana sottolinea come la minaccia non venga presa troppo sul serio, perché le indicazioni per fortuna sono vaghe e generiche, speriamo rimangano in questo ambito piuttosto indefinito. Sono in corso, sentiamo l'audio di Fox. Blue Room may be about to come to a conclusion because at the back end of the motorcade we're beginning to see some personnel move around getting to the vehicles. C'è movimento attorno al corteo presidenziale, si stanno preparando a muovere dalla Casa Bianca, il caffè l'hanno preso, anzi ne vuole un altro, gli avrà detto Laura. Ne vuole un altro, Michel, tanto lo devo finire perché andiamo via, traslochiamo, così lo finiamo, insomma siamo un po' in questo momento. Monteranno in macchina tutti insieme, diranno freddo, oggi freschino, sì, lei cosa ha messo? La classica conversazione sul tempo. Terrificanti momenti di imbarazzo, perché poi in fondo sono esseri umani anche se presidenti. Continuiamo a seguirlo tra poco qui da Jefferson. Ecco, c'è un no, questo l'abbiamo già visto, questo è l'arrivo di Barack e Michelle, elegantissima in completino giallo paglierino. Ci improvvisiamo anche stilisti oggi. Thank you. Jefferson 2, l'arte della svolta. Casa Bianca. Il passaggio di consegne. This campaign has to be about reclaiming the meaning of citizenship, restoring our sense of common purpose, and realizing that few obstacles can withstand the power of millions of voices. E qui siamo il 10 febbraio 2007, ovvero poco meno di 2 anni fa. Siamo davanti al Campidoglio di Springfield, nello stato dell'Illinois, e Barack Obama, in un'altra giornata fredda ma memorabile, dice che il senso dell'America deve essere quello di ritrovare il significato della parola cittadino, e la sua piattaforma sale un altro gradino, perché lui decide di candidarsi per la Casa Bianca, di candidarsi comunque per le primarie democratiche, una sfida giudicata a quel momento impossibile, visto che una corazzata stava navigando a largo, quella comandata da Hillary Clinton. Poi la storia ci avrebbe insegnato che le cose sarebbero andate diversamente. Oggi è il giorno dell'inaugurazione di Barack Obama, oggi è il giorno della forma e anche il giorno della retorica, da domani arriva il giorno della sostanza, il giorno delle idee e dei piani e delle azioni, e sicuramente i toni devono cambiare, ma oggi è il giorno del grande festeggiamento e del passaggio di consegne, del cambiamento a lungo evocato. Ci state scrivendo con ogni mezzo possibile, con molta ironia sugli sms 349 238 6666. Un ascoltatore chiede per esempio se sulla macchina di Obama, David da Verona, a fianco a Chrysler c'è scritto tra parentesi Fiat, che mi sembra una interessante considerazione. Maria dice che il T9 dei cellulari non riconosce Obama, e questo effettivamente è un segno di software obsoleto. Poi ancora c'è chi dice: mi sembra di vedere Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco quando lo sceriffo nero arriva in città, scrive Antonio. Poi ancora vediamo, spero gli amici si stringano attorno a lui e lo proteggano, scrive Andrea. E poi ancora quanti soci ufficiali avrà Obama, chiede Filippo. Questo glielo sapremo dire. Sul numero di Spider-Man ne ha uno, comunque non ufficiale, un nemico era. E poi ancora le vostre risposte su Facebook, i vostri auspici per Barack Obama. Ale scrive: spero solo che per una volta Noam Chomsky abbia torto. Giovannella scrive: sono convinto che Obama non deluderà le attese degli americani e dei cittadini degli altri paesi del mondo che in questo momento guardano all'America con rinnovata fiducia. Di certo oggi si avvera un sogno, quello di Martin Luther King. Il giuramento di Obama, che diventa primo presidente nero degli Stati Uniti, segna la fine delle rivendicazioni razziali. E Marco scrive: le nostre speranze in lui sono riposte, le aspettative sono elevate, non ci deludere. Mettiamo il nostro Express Yourself, mi sento più motivato. Express Yourself. Perché questi siete voi che parlate e che date voce e contributo a Jefferson. Certo, Luca parla direttamente a Barack, ci salta e gli dice: Barack, non fare il patacca. Speriamo senta i suggerimenti. Intanto vai. Qui vedo che nel mare sempre agitato, sempre in movimento di Facebook, nuota anche un certo Saro Capozzo, che conosciamo molto bene. Ciao Saro. La nostra fonte ufficiale, la nostra prima voce da Shanghai, ci scrive un corposo messaggio, ha risposto ancora al nostro appello su Facebook, che dice: una frase per Obama da Shanghai. Oggi inizia una nuova era, quella che segnerà una nuova fase nei rapporti tra Stati Uniti e Cina. I cinesi dovranno scegliere se crescere realmente e prendere posto tra le potenze che decidono, oppure fare finta di farlo e diventare il grande nemico del futuro per gli americani. Il finale è comunque apocalittico, secondo Saro, perché ci scrive: nel primo caso l'Europa prenderà le briciole e non conterà più come ora, nel secondo caso sarà semplicemente schiacciata tra i due colossi. Quindi speriamo almeno che questa seconda parte della profezia non si avveri. Giornali americani con mani bianche che stringono le mani nere in quarta di copertina, e è il momento in cui i VIP stanno entrando, stanno prendendo posto sulle gradinate del del Campidoglio, è entrato il Senato e i membri del Congresso in genere. Alcuni ascoltatori ci chiedono, in riferimento a quello che raccontavamo ieri, se si è venuti a conoscenza del contenuto del famoso bigliettino. Ormai è tradizione che un presidente uscente lasci sulla scrivania al collega un bigliettino con, non so, non il numero delle matite temperate, ma insomma con un augurio. E volete sapere se noi di Jefferson siamo a conoscenza del contenuto del bigliettino? Ma naturalmente sì, eh. Però voglio la base, quella solenne, quella da bigliettino, grazie. E allora, no, in effetti è semplicemente Danna Perino, la indimenticabile portavoce. Che farà adesso? Ogni volta che si dice Danna Perino bisogna dire, l'hai visto il nuovo portavoce di Barack Obama? Un uomo carnoso, dall'aria così, da bravo ufficio stampa, un po' truce. Danna Perino era tutta un'altra cosa. Quindi ma piangerai ormai per sempre Danna Perino. Già Jefferson come ufficio stampa del nostro programma. Insomma, ma ormai uscente anche lei, si è lasciata andare a qualche confidenza. Ha detto che effettivamente anche George W. Bush non si è sottratto alla tradizione del bigliettino ed è pronto il bigliettino per Barack Obama. Il contenuto del biglietto, dice Dana, però ricalca temi già toccati in questi giorni dal presidente. Insomma, non si ha detto tutto e niente. Non c'ha avuto un'idea sua, una cosa tipo te lascio il cappello, non so, gli stivaloni rimandameli al ranch. Dice che comunque c'è scritto che Bush ritiene l'arrivo di Obama un nuovo capitolo favoloso nella storia americana. Poi insomma, in fondo lui alle 15:55 ora americana, quindi alle prima delle 10 di stasera, monta sul suo aeroplanone e se ne va nel Texas. Dopo magari vi daremo qualche particolare a riguardo. Adesso abbiamo invece un paio di notizie dal mondo, una intanto molto seria perché viene dall'autorità nazionale palestinese in questo periodo di grossa crisi, di grande difficoltà, di tragedia a Gaza. C'è un messaggio rivolto direttamente ad Obama: l'autorità nazionale palestinese augura ogni bene al nuovo presidente americano. Ha parlato anche il premier palestinese Salem Fayyad, che auspica un coinvolgimento maggiore di Europa e Stati Uniti nella questione israelo-palestinese. E poi c'è un'altra storia che invece giunge dal Giappone, perché caro Stefano, Obama non è soltanto il nome del l'uomo più potente e famoso del mondo in questo momento e per i prossimi almeno 4 anni, ma anche il nome di una città giapponese che si chiama proprio Obama. E quindi ci sono dei fan caldissimi anche dalle parti di Tokyo e dintorni, perché 100 fan del primo presidente afroamericano della storia, leggo testualmente da una Reuters che abbiamo intercettato, hanno sfidato il freddo pungente che c'è anche evidentemente in Giappone. Si sono dati appuntamento in un tempio buddista per una festa in perfetto stile hawaiano, quindi onore anche all'origine di Obama. E un gruppo di 21 persone che si fanno amici di Takeshi Kitano, quelli che fanno i programmi dei matti. Insomma, c'è questo gruppo che si fa chiamare Obama Girls and Boys, sono 15, 7 uomini e 15 donne, hanno danzato la hula e altri hanno intonato una canzone dedicata alla città, quindi festa anche in Giappone per Obama. Ecco, sta passando in questo momento il corteo presidenziale e 80 macchine più o meno. Ottantina, ma forse anche qualcuna di più. Salutato naturalmente la folla applaudente, apriamo i canali. Anti-rooms. We saw the CIA. La stanno seguendo tutti Cameron di Fox, stanno seguendo tutti i cronisti, stanno evidentemente avvicinandosi alla parte posteriore. Ecco. E questo è Ted Kennedy, accidenti, cioè Ted Kennedy che sta entrando, devo dire, di buona lena, meglio di Cassius Kennedy, meglio di Muhammad Ali. Ha sorriso persino. Ted Kennedy con il suo cappellone in testa e una sciarpa azzurra, un'aria allegra e assolutamente in alti spiriti e forse anche in ma l'aveva detto io ci sarò migliori. Il giorno dell'insediamento di Obama sorridente è entrato Ted Kennedy. 48 anni fa suo fratello diventava presidente degli Stati Uniti d'America, anche per lui era stata pronosticato un grande futuro presidenziale. Adesso sta salutando e baciando migliaia di amici, colleghi, no, migliaia, no, alcuni dei suoi amici e colleghi lì negli scranni della rappresentanza ufficiale politica americana. Continuano gli arrivi illustri, la presenza di Ted Kennedy è veramente una sorpresa. Ancora Express Yourself, vai. Express Yourself. siete voi a tornare a dare i vostri auspici a Barack Obama. L'Unix scrive che l'amministrazione Obama segni la fine del unilateralismo americano, che possa contribuire a far cadere quel muro ideologico e culturale che contrappone Oriente e Occidente, che sia catalizzatore di pace e collaborazione tra i popoli. Riccardo, il mio auspicio per la nuova presidenza americana è che Barack Obama possa tornare a far sentire gli Stati Uniti più vicini al resto del mondo e sappia tendere la mano, stringendo il pugno, solo quando e se sarà davvero necessario. Matteo, se ho una speranza, quella che il resto del mondo, che ha sempre avuto grande spirito di emulazione nei confronti di tutto ciò che era ed è statunitense, continui a emulare, cercando di ricreare il modello Obama in ogni singolo Stato e nazione. Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes. Dick Cheney, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, ancora in carica per 73 minuti, che sta montando su un apposito SUV fatto venire apposta, come si dice in questi casi, per farlo montare con tutta la sedia a rotelle, sulla quale è ridotto, per fortuna, non da un grave incidente ma da un problema alla gamba. Infatti seguirà il giuramento di Obama in sedia a rotelle, era già stato ampiamente annunciati. Sono usciti dalla Casa Bianca anche i protagonisti assoluti, le due coppie presidenziali, la 43 e la 44, la Bush e la Obama. È arrivato nel frattempo al Campidoglio, in questo grande, complicato, intricato cerimoniale, che poi prevede anche una formidabile parata, no? La parata a piedi con la quale tutta l'America verrà rappresentata nel viaggio verso la Casa Bianca, con qualcosa a metà poi fra una parata di carnevale, una gran festa, quelle parate popolari che gli americani amano tanto, e allo stesso presidente in questo caso sfilerà. È arrivato, vi dicevo, il presidente della Corte Suprema, che è il Chief Justice John Roberts, che è colui nelle cui mani Obama presterà il giuramento, giurando sulla famosa Bibbia usata allo stesso scopo da Abramo Lincoln il giorno 4 marzo 1861. Una copia preziosa, preziosa per il suo significato storico, non certo per il valore del volume in se stesso, mai più usata da quella inaugurazione. Un'altra grande, un altro strappo, no? Un'altra grande concessione in vista di una presidenza con un sapore speciale. Mario Platero, ce lo siamo persi. Mario Platero, stiamo cercando di contattarlo, però c'è la voce americana che dice le linee sono piene. Che dice stai scherzando a telefonare a uno. Mi sa che è impossibile con 2 milioni di persone. Caro Emiliano, stai scherzando a voler contattare uno là in mezzo. Ecco un altro bel corteo presidenziale che si muove nello poi relativamente breve percorso dalla Casa Bianca al Campidoglio, saranno un chilometro e mezzo. Vorrei dare ancora voce ai nostri ascoltatori. Sì, anche perché c'è una bella mail su cui potresti intervenire. Ferma tutti, allora express yourself. Via. Express yourself. Allora, in corso d'opera, in corso di trasmissione, ci è arrivata una mail molto puntuta di Fiore, quindi potresti commentare a dovere, perché ci chiede: sono stati spesi per la festa di Obama 160 milioni di dollari e a chi sono stati affidati? A Bono, a Bruce, a Bon Jovi? In questo momento di recessione in America era indispensabile spenderli? Questa è l'ardua domanda che ci pone Fiore via mail. Grande è il dibattito attorno a questi quattrini usciti, la cifra adesso è oscillante, credo fare i conti in questo momento non sia nelle possibilità di nessuno. Si è discusso molto comunque che in un momento di recessione di questo genere, ecco qua, ho trovato gli appunti al riguardo, ma c'è anche chi afferma, per esempio un membro del comitato inaugurale, è che il paese, nonostante tutto, nonostante il sacrificio economico folle di una spesa di questo genere, in un certo senso aveva bisogno di un investimento psicologico, in una iniezione di fiducia, in una grande rappresentazione di se stessa, di se stesso, come quella che sta andando in scena oggi. Visto... Quindi non fare questa festa sarebbe stato un segno ancora peggiore, c'è, ancora c'è negativo, come Franklin Delano Roosevelt, che diceva: facciamo una cosetta rapida, un'insalata e tutti a casa a lavorare. In questo caso si è fatta una scelta diversa, motivazione innanzitutto: da domani ci si rimbocca le maniche, per oggi festeggiamo. Ancora voi, Sandro scrive: oggi è il grande giorno mediatico per Obama, l'uomo che appartiene all'establishment, da domani si vedranno le prime decisioni, ok per la chiusura Guantanamo, ma ci saranno aiuti per l'economia, ma credo lui non possa toccare quella finanza che sta affossando il mondo ovest, est, nord, sud. Francesco: penso che se Obama ricorderà che è arrivato lì grazie alla gente e continuerà a sentire il polso degli americani, riuscirà a non deluderli. Franco: Obama può solo deludere viste le attese che abbiamo su di lui. Barack: deludimi il meno possibile, sarò felice. Celeste: auguro tutto il bene del mondo al presidente Obama, gli Stati Uniti hanno questa splendida sfida davanti a loro. Gianfranco: speriamo che Obama non sia una summa di utopie, ma concreto e deciso nel difendere i valori di libertà. Ragazzi, è cambiato poeti, un po' il tono, poeti. Però qualche mese fa. Ma qui c'è anche chi si dà al latino, attenzione, nei gusti fantastici. Guardate che mica sto saltando quelle brutte, Una frase per Obama da Shanghai, da Sarmo, questa abbiamo letta. Ma hai visto quelle in latino? No qui parum abet, sed qui plus cupit pauper est. Traduci. Non colui che ha poco, ma colui che desidera sempre di più è povero. Forse dedicato a chi non si accontenta di Obama e trova già la pulce, insomma. Andiamo così. Aspettiamolo latino. Questo Obama al lavoro. Jefferson in latino presto, edizione latina. Poi per esempio c'è Beppe, che anche lui è molto poetico, perché dice, adesso ha 48 anni, dice: quando ne avevo 10 mi chiesero cosa speravo nel futuro e io dissi al mio insegnante che prima di invecchiare speravo di vedere i marziani. Ebbene, Obama per me incarna quel marziano che desideravo e non immaginavo. Roberto: provaci. Marco: let's get back on track. Mauro: con la mia presidenza gli Stati Uniti faranno la loro dichiarazione di dipendenza, cercando di non fare sempre tutto da soli, ma insieme a tutti i paesi democratici della terra e all'ONU. Insieme si può, together we can, scrive Mauro. E ancora tante. Aieie scrive: una via possibile per lo sviluppo sostenibile, una globalizzazione dei popoli, ambizioso. Paolo: spero che con Obama l'America torni a essere quella che abbiamo sognato in gioventù. Mauro: era tempo che questo mondo ricominciasse a sperare. Come primo passo non c'è male. Sentiamo cosa è successo il 5 novembre a Chicago. Hello Chicago! If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. La risposta data agli americani, se il sogno dei fondatori poteva essere ancora possibile. La risposta è stata sì, noi vi abbiamo accompagnato per la penultima ora che precede l'insediamento di Barack Obama, che adesso vediamo viaggiare in macchina a bordo della Chrysler targata 44, che pare più blindata di un carro armato, verso il Campidoglio. È praticamente arrivato, salutato dalla folla applaudente, sentiamo un po' di effetti. È così, la festa sta cominciando, poi parate, balli, quante telecamere, è il giorno della forma, lo dicevamo. Sono più ripresi che un gran premio di Formula 1, certo, in questo tragitto della macchina di Obama. Il giorno della forma, domani arriva il giorno della sostanza, noi oggi cambiamo anche sigla. Man who stole the water, he'll swim forevermore, but he'll never reach the land on that golden shore, that faint white light. Well, you know, for me, the first thought I have is when I watch them go down East Executive and turn till he's only a memory. Lost in the dark, dig a hole in the ground. E questi sono cinque ragazzi ciechi dell'Alabama, uno dei più famosi gruppi gospel d'America, perché, ripeto, c'è anche un altro segno, inutile far finta di niente, c'è anche un altro segno importante che va oltre la forma di cui abbiamo parlato per dare il senso della giornata di oggi, che invece è già sostanza il giorno prima dell'insediamento, perché questo insediamento è al tempo stesso una causa e un effetto. Jefferson riparte da qua, da domani. Io sono Stefano Pistolini, qua c'è Emiliano Enrico e Valerio Rocchetti e Filippo Aureggi, parte tecnica, Milano, Roma. Abbiamo una mail, qui indirizzo è variabile, lo ridaremo domani perché abbiamo cambiato nome, ma su Facebook già ci trovate a redazione Jefferson 2, 2 in parola, mi raccomando, oppure alla bacheca che si chiama Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself, perché voi siete parte di questo progetto. A risentirci domani su Radio 24. Don't you dig yourself into a hole until you've paid the price. You can't know what it's worth. The air and the water, the fire.